Giomarie. Che chiave, non mi risponde, boh. Oh, ci hanno tutto distorto, Giomarie. Ho capito. Ho detto che stai uscendo tutto distorto. Ah, male sto io. Aspetta, adesso? Adesso stai uscendo bene. Ho detto, ti stavo chiamando sempre, boh, ma non c'eri? Oh, ho acceso verso le 7:10, ma non mi ha risposto nessuno, allora ho chiuso torno. Ah. No, perché c'è pazzesco qua? Ogni tanto davo un colpo di portante, ma non si appacciava nessuno. Ho chiamato, ma... Non mi ha riposto nessuno, allora c'è dura da Sarra. Io sei pazzesco, sono a casa, sei pazzesco qua. Se chiama qualcuno, io rispondo. Andiamo, via, andiamo. Per forza dobbiamo andare bene, che male è. Poi andiamo sempre bene. Ehi, grande bene. Ehi, vabbè, le cose non è che vanno sempre bene, là. Qualche volta un po' malino, però un po' bene, un po' male, tirando avanti. Speriamo, se andiamo bene. Eia, eia. Signor Marchese, non si è sentito, no? No, ancora no. Ci ha chiamato dalla macchina, non uso più. Vediamo un po' la testa, signor Marchese. Ancora sta parcheggiando la macchina, non entra dentro la macchina, dentro il garage. Aspetta un attimino, Giomari, ti devo lasciare che sto chiudendo. Ehi, d'accordo, ci sentiamo, dai, buon proseguimento. Fai pure. Ok, ciao Giomari.